America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Apriamo una nuova settimana molto intensa sul piano della politica interna americana. Da New York, Mario Platero. Oggi parleremo soprattutto di immigrazione. Ecco quella che avete sentito, una tipica canzone messicana, la cucaracha. I messicani sono piuttosto irritati con gli americani. Una nota di protesta è stata diramata da Città del Messico perché la signora Jan Brewer, governatore dell'Arizona, ha firmato una proposta di legge molto dura che prevede di deportare, di espellere gli immigrati illegali con procedure senza precedenti per la garanzia dei diritti civili americani. E la settimana questa in cui si dibatterà di immigrazione, in cui si deve dibattere, e ci sarà fra poche ore un voto molto importante a questo proposito al Senato, in cui si deve dibattere, dicevo, di riforma del sistema finanziario e dunque delle nuove regole, cosa succede in tutto questo? Che ci rendiamo conto che con queste varie sfide, con tutti questi fronti aperti, il piatto per il presidente Obama si fa piuttosto ricco. Ieri un articolo di prima pagina del New York Times anticipava che le prospettive delle elezioni di novembre per la Casa Bianca, per i democratici, sono piuttosto pessimistiche. C'è il rischio addirittura, dal punto di vista dei democratici, che i repubblicani riescano a riconquistare la maggioranza in una delle due camere. Sicuramente la battaglia politica è durissima, sicuramente i repubblicani sono all'attacco e Barack Obama al contrattacco, cerca di accumulare punti cercando di risolvere situazioni che si erano incancrenite, paralizzate, che i suoi successori non erano riusciti in qualche modo a sdoganare. Una di queste è appunto quella dell'immigrazione. Sentiamo perché improvvisamente è diventata l'attualità. I've decided to sign Senate Bill 1070 into law because though many people disagree. Ecco, avete sentito la voce di Jan Brewer, governatrice dell'Arizona. Dice di aver pregato, dice di essersi concentrata molto, di aver ascoltato con pazienza le promesse dei politici a Washington. Fra queste promesse c'era quella di costruire una grande barriera, una grande muraglia al confine tra l'Arizona e il Messico per proteggere lo Stato dalle immigrazioni illegali. Non è stata costruita questa muraglia, o meglio, è stata costruita solo parzialmente, e dunque ha detto: ho deciso di firmare questa legge, mi rendo conto che è una legge molto dura, ma ho deciso di firmarla perché è nel migliore interesse dello Stato. Che cosa prevede questa legge? Prevede che la polizia dello Stato possa fermare chiunque sia sospetto di essere un immigrato illegale, e dunque stiamo parlando di racial profiling, stiamo parlando di identificare delle persone che possono sembrare dai caratteri somatici dei messicani, dei latinoamericani, fermarli, chiedergli i documenti. Se i documenti non sono in ordine, sono immediatamente arrestati, portati in dei centri di detenzione e da lì vengono deportati nel loro paese di origine. Ecco, dovete rendervi conto che negli Stati Uniti i diritti civili, comunque anche di coloro che sono immigrati illegali, sono comunque protetti, e che molti di questi immigrati illegali vivono da anni negli Stati Uniti illegalmente, non hanno mai avuto disturbi dalla polizia, pagano in alcuni casi persino le tasse, hanno delle famiglie, hanno dei figli che vanno a scuola, magari dei figli che sono nati negli Stati Uniti e che dunque sono americani. E a questo punto che cosa succede? Che queste persone vengono appunto arrestate e deportate, si spezzano delle famiglie, si creano delle situazioni molto complesse, molto difficili, si è scatenata ovviamente una reazione durissima a Washington, soprattutto fra i democratici, soprattutto da parte del presidente Barack Obama, che proprio venerdì, quando la signora Brewer ha fatto questo annuncio, ha firmato la legge, il presidente ha dichiarato che avrebbe lanciato la sua offensiva per una riforma sull'immigrazione, approfittando proprio di questa occasione che l'ha offerto la Brewer, che ha lasciato il paese, gli Stati Uniti, un po' scosso e che ha creato non poca sensazione fra le comunità latinoamericane. 47 milioni di persone, il 15% degli americani, totale di immigrati illegali, in aggiunta a questa 12 milioni di persone. Ecco, Obama è intervenuto in materia, ha detto che a questo punto dovrà intervenire il governo federale dal punto di vista della riforma per la situazione degli immigrati, quindi una riforma per l'immigrazione, e che lui lancerà una sua campagna perché questo progetto possa andare avanti. La sua idea è quella di far sì che coloro che sono qui da più di 5 anni, che magari hanno anche pagato le tasse, possano fare una loro autodenuncia, rientrano nel loro paese di origine per poi ritornare con un permesso regolare di lavoro. Non solo, per il futuro si vogliono concedere dei permessi di lavoro a coloro che vogliono venire a lavorare negli Stati Uniti, dei permessi di lavoro temporanei. Il presidente Obama è deciso ad andare avanti, ma attenzione, per chi potesse pensare che ha deciso all'improvviso di partire in una controffensiva, raccogliendo la sfida che gli è giunta dall'Arizona, cercando di isolare i repubblicani che limitano in qualche modo i diritti degli immigrati, ricordiamolo, gli Stati Uniti sono un paese di immigrati, in realtà non è un'improvvisazione questa sua azione, ma è una manovra in cantiere da molto tempo. Vediamo perché. It's very important for us to sequence these big initiatives. Ecco, avete sentito, lo stesso presidente Barack Obama dice di avere un piatto molto ricco, molto pieno, un piatto pesante, pieno di ipotesi di riforma, ma questa sua affermazione risale al 9 agosto dell'anno scorso, quando a un vertice a Guadalajara l'anno scorso con Felipe Calderón, il presidente messicano, e Stephen Harper, il presidente canadese, illustrò la sua strategia di riforme parlamentari ed esecutive e disse: dovrò prima occuparmi della riforma sanitaria, poi dovrò occuparmi della riforma energetica, poi di quella finanziaria. Infine dovremo affrontare il problema dell'immigrazione. Dovrò far sì, diceva allora Obama, che tutto non capiti allo stesso tempo per non avere una situazione ingestibile. Ebbene, tutto sta in effetti un po' capitando allo stesso tempo, ma alla luce di questa pianificazione è stato proprio venerdì che il presidente, su suggerimento dei suoi consiglieri politici David Axelrod e David Plouffe, ha deciso di giocare d'anticipo sull'azione del governatore dell'Arizona. È stata organizzata alla Casa Bianca una cerimonia di naturalizzazione di soldati americani immigrati illegali. Già, perché gli immigrati illegali non possono lavorare negli Stati Uniti legalmente, ma possono essere arruolati dall'esercito e andare a combattere al fronte sotto la bandiera americana. Sul piano simbolico, dunque, il presidente ha voluto rilanciare dal punto di vista morale una responsabilità molto significativa e importante del paese nel riconoscere che il problema è caldissimo. Questi 12 milioni di immigrati illegali non potranno continuare a stare in questa situazione di limbo e dunque bisognerà occuparsene. Un problema politico però di non facile soluzione, perché subito dopo è intervenuto il senatore Graham. The answer to me in solving the immigration problem. Lindsey Graham, senatore della Carolina del Nord, un senatore repubblicano, conservatore, ma aperto al dialogo con i democratici, insieme a Charles Schumer, senatore democratico di New York, ha lavorato proprio alla messa a punto di una riforma per l'immigrazione. Dunque Obama sapeva di poter contare su una sponda bipartisan, bipartitica, se non che cosa è successo? Beh, Graham aveva detto che voleva occuparsi di immigrazione molto più in là. Non gli è piaciuto il gioco d'anticipo di Barack Obama e proprio oggi avrebbe dovuto annunciare un importante processo legislativo sul clima. Ebbene, nel corso del fine settimana ha detto che non l'avrebbe annunciato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno. Chi meglio di Bruce Springsteen può rappresentare l'idea del melting pot americano, figlio di un irlandese e di una italo-americana? Quindi sì, Bruce Springsteen, forse qualcuno di voi non lo sapeva, ma ha sangue italiano. E dunque di Bruce Springsteen, simbolo dell'America, simbolo anche dell'immigrazione americana, ascoltiamo una canzone dedicata all'immigrazione, un classico, American Land. York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!